Obiettivo Salute Weekend di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi e benvenuti. Seguiamo come ogni giorno le mosse del coronavirus. Oggi siamo in diretta per fare il punto della situazione, per chiarire dubbi, per raccogliere tutte le informazioni utili e necessarie per evitare di farci contagiare da paure, allarmismi ingiustificati che spesso hanno una contagiosità più alta di quelle degli stessi virus. Come sempre chiedo il vostro aiuto, potete partecipare alla trasmissione, porre le vostre domande scrivendo un messaggio al 349-238-6666. Come sapete lo stesso numero vale anche per i messaggi WhatsApp. Oggi in linea abbiamo il vice ministro della salute Pierpaolo Sileri e la professoressa Maria Rita Gismondo, direttore della microbiologia dell'ospedale Sacco Università di Milano, che è un centro di riferimento nazionale per le bioemergenze. Grazie per essere con noi. Buongiorno. Grazie a voi. Allora, vice ministro Sileri, comincio da lei chiedendole di fare un po' il punto della situazione. Partirei dalla coppia di turisti cinesi ricoverati allo Spallanzani di Roma. Come stanno e soprattutto quali risultati hanno dato sino ad ora i controlli che sono stati effettuati sulle persone che sono venute in contatto con la coppia? Sarò brevissimo. I due turisti cinesi stanno bene e i 32 controlli fatti sugli altri sono negativi, quindi al momento i due turisti cinesi individuati nella giornata di giovedì sono gli unici due gli unici due sul territorio italiano che hanno avuto il nuovo coronavirus. I due turisti cinesi non sono stati sottoposti a controlli quando sono arrivati in Italia, perché come abbiamo letto come indicano le date il loro volo è arrivato quando i controlli sanitari disposti dal Ministero della Salute non erano ancora previsti, no? Infatti loro sono arrivati il 23 e sono scattati il 26, è corretto? E su questo vorrei fare una precisazione. Grazie. Allora, i controlli messi in atto dal Ministero sono iniziati il 9 gennaio, con dei controlli ovviamente che si sono modificati nei giorni successivi a seconda di ciò che accadeva ovviamente in evoluzione in Cina. Certo. Quindi i controlli sono passati a diverse fasi, avete visto, c'è stato prima semplicemente la dichiarazione che veniva fatta dal comandante, poi siamo passati agli scanner, poi al controllo della temperatura di ogni soggetto sui voli provenienti dalla Cina, ora al blocco ovviamente dei voli. Quindi è chiaro che abbiamo intensificato i controlli anche a seconda dell'evoluzione della situazione in Cina e nel mondo a questo punto. Ma ci potrebbero essere altri casi simili? Ora, io non ho mai escluso la possibilità di casi già da alcuni giorni. È chiaro che esiste la probabilità che possano esserci altri casi, certo. Professoressa Gismondo, che cosa dice a lei come esperta, lei dirige la struttura di microbiologia del Sacco, questa situazione attuale? Cioè, le condizioni di salute della coppia di turisti cinesi sono buone, al momento non sono stati verificati altri casi, che cosa ci dice questa situazione del virus? Questa situazione ci dice, come ha detto il Vice Ministro, col quale sono perfettamente d'accordo, che qualche caso sapevamo che sarebbe potuto arrivare, ma ci dice dall'altra parte che i nostri controlli sono serrati, infatti sono stati poi intercettati subito appena hanno avuto i sintomi, e che funziona la sanità. Infatti le due persone stanno bene. Ricordo che la gente che muore per questa infezione di solito o ha cure tardive o già ha delle patologie. Quindi questo ci dovrebbe anche maggiormente confortare. Vice ministro Sileri, il governo dichiara lo stato di emergenza per 6 mesi. Il nostro paese è l'unico in Europa ad aver adottato provvedimenti particolarmente severi come il blocco dei voli da e per la Cina. Il ministro Speranza si è espresso così sul virus. Noi abbiamo fatto una misura che è cautelativa. Abbiamo sin dall'inizio alzato la soglia di salvaguardia e di controllo. Siamo in questo momento l'unico paese europeo che ha interrotto i voli con la Cina e che ha immediatamente assunto, adeguato le proprie istituzioni, la propria impostazione istituzionale all'indicazione che ieri è arrivata dall'OMS, che è l'organismo che decide, che delibera lo stato d'emergenza globale sul piano sanitario. quindi siamo al lavoro, ci sono tutte le condizioni nel nostro paese per poter seguire con la massima attenzione questa vicenda, abbiamo scelto un livello di attenzione che in questo momento è davvero il più alto in Europa e ci sono tutte le condizioni, ora anche con l'ultima scelta che abbiamo fatto del commissario per l'emergenza, per poter monitorare e seguire la situazione nella massima serenità. Ministro Sileri, il ministro Speranza dice che l'epidemia non, in Italia non dà problemi, ma viene trattata come la peste e il colera. Questa ulteriore informazione rassicura, ma può generare anche un po' di allarmismo. Ce la vuole spiegare? Ecco, sì, la spieghiamo diciamo facilmente. Grazie. Il ministro giustamente ha fatto un esempio su quello che può essere il livello di attenzione, nessun riferimento diretto alla peste e al colera, per carità di Dio, ormai dopo alcune settimane conosciamo qual è il percorso di questo virus, quella che è la letalità, la diffusibilità, l'incubazione, quindi ormai è chiaro, ha solo fatto un esempio per dire guardate, noi abbiamo messo un livello alto e sì, ha fatto un esempio, tutto qui, cioè non associerei ovviamente il nuovo coronavirus né al colera, per carità di Dio, né alla peste. Nemmeno, guardi, proprio nemmeno alla SARS e nemmeno alla MERS. Ma noi siamo qua in diretta proprio per chiarire un po' la situazione, perché in questi giorni maneggiamo delle parole che magari sono molto tecniche e di cui vogliamo capire bene il significato, perché questo può generare paura. Arrivano naturalmente i WhatsApp, noi siamo in diretta, ve lo ricordo, 349-238-6666, la gira ad entrambe. Se ci sono questi controlli, come mai si sono verificati ugualmente dei casi che sono entrati e hanno girato liberamente in Italia? È una domanda che ricorre. Viceministro Sileri, una sua risposta e poi andiamo alla professoressa Gismondo. Vedi, i controlli ci sono e questo ne ha dimostrato l'efficacia. Sono entrati dei soggetti che stavano bene e che avevano in serbo diciamo il coronavirus, che poi ha sviluppato la sua malattia, ovviamente molto contenuta, come diceva la collega, immediatamente presa, cioè pressoché la totalità dei casi vanno in guarigione. Non è vero che non sappiamo ciò che hanno fatto questi due turisti cinesi ora diventati pazienti, perché a ritroso tutto il loro percorso è stato controllato. Credo che diciamo chi fa affermazioni del genere debba essere solamente tranquillizzato e probabilmente anche più informato di ciò che accade, cosa che non sta accadendo. Devo dire che c'è un po' di panico generalizzato, ieri la polemica sulle mascherine. Attenzione, il virus adesso lo conosciamo, quando è nato non si conosceva, come tutte le cose ignote mettono paura. È evidente, non sai qualche mortalità, è stato tutto etichettato come virus letale, ecco, letale in una piccolissima percentuale di casi, come diceva la collega, prevalentemente in chi? Soggetti anziani, già debilitati, ovviamente persone più a rischio. Vogliamo fare un esempio, paragonarlo a qualcosa? Sì. Non voglio paragonarlo all'influenza. Io volevo proprio chiederle questo. Perché però non lo vuole paragonare all'influenza? Perché secondo me è presto per paragonarlo all'influenza e parliamo di una diffusione sicuramente più rapida, come è avvenuto in Cina, è un virus che è recente. Però io posso parlare di numeri e se le dico quali sono il numero di persone che muoiono ogni anno durante il periodo di osservazione in Italia per influenza, le dico che sono fra le 200 e le 300 dirette. Ora, possibile che il virus dell'influenza non fa così paura, tanto che diciamo si ricorre alla vaccinazione in una percentuale di casi quando dovrebbe essere maggiore per il virus dell'influenza? E parliamo di numeri. Ora, noi sappiamo che la quasi aspetti totalità... Aspetti, viceministro, prego. Parliamo di numeri. Io devo dare la viabilità, poi ritorniamo subito dopo insieme con le vostre domande. E il viceministro Pierpaolo Sileri e la professoressa Maria Rita Gismondo. Obiettivo di questa puntata è naturalmente raccogliere le informazioni e rispondere alle nostre domande, chiarire i nostri dubbi. A tra poco. Obiettivo Salute Weekend. Siamo in diretta, riprendiamo la nostra puntata dedicata oggi al coronavirus. Lo stiamo monitorando come lo stiamo facendo quotidianamente. In linea il Vice Ministro della Salute Pierpaolo Sileri e la professoressa Maria Rita Gismondo. Aspettiamo naturalmente le vostre domande. Intanto, Vice Ministro Sileri, lei arrivava ai numeri per darci un messaggio di tranquillità. Sì, perché diciamo, vede, fra le varie notizie, alla fine l'unica cosa che conta sono i numeri, e quindi non può criticarli nessuno, i numeri sono secchi. Ora, abbiamo un nuovo virus, l'influenza stagionale noi la controlliamo, la monitoriamo, la conosciamo da anni, sappiamo qual è il trend e quanta gente si infetta di influenza stagionale durante una stagione. Da lì abbiamo il numero dei decessi e ricaviamo una mortalità. Su questo virus la stessa cosa non può essere fatta, anzi, ancora non può essere fatta, perché sappiamo quali sono i casi in Cina prevalentemente, dove diciamo c'è la stragrande maggioranza dei casi. Da lì abbiamo un numero che sono il numero dei decessi, che sono poche centinaia, e da lì ricaviamo una percentuale, ma quella percentuale è largamente sovrastimata, forse anche fra il 2 e il 3%. Non sappiamo a monte quanti altri hanno avuto diciamo l'infezione di questo virus e l'hanno passata senza avere nessuna sequela, senza diciamo essere andati in nessun pronto soccorso. Quindi è evidente che quella percentuale è addirittura più bassa rispetto a questo. Quindi non posso paragonarla perché numericamente non so esattamente quali sono, quanti sono gli infettati in Cina. Sicuramente sono molti di più di quelli che sono riportati, ma la stragrande maggioranza di essi verosimilmente è guarita senza nemmeno accorgersi probabilmente di aver avuto un'infezione. Cioè quelli sono i casi più gravi o sono i casi vicini a coloro che hanno avuto un'infezione più grave e quindi sono stati controllati. Quanti di noi hanno un'influenza spesso con dei sintomi così piccoli che manco ci badano? Dici forse ce l'ho avuta. Bene, la stessa cosa avrà fatto questo virus. Quella percentuale è più bassa di quella che noi vediamo oggi. Questo posso dirlo per certo. Allora, i cinesi residenti in Italia, attualmente ancora in Cina, e questa è una domanda di Daniela che naturalmente rivolgo al Vice Ministro Sileri per poi passare ad una specie di vademecum sul coronavirus con la professoressa Gismondo. I cinesi residenti in Italia, attualmente ancora in Cina, potranno rientrare? Se rientreranno in altri stati via aereo, poi come verranno controllati? Ha una risposta secca per Daniela? Non ho una risposta secca, l'unica risposta che posso darvi è che stiamo organizzando. È evidente che ci sono lì degli italiani che devono rientrare e qui dei cinesi che devono rientrare. Quindi noi siamo all'opera ogni giorno per diciamo organizzare tutto questo. Già per esempio posso anticiparle che domani diciamo si partirà per andare a prendere i nostri connazionali che si trovano nella città di Wuhan. Questa è una buona notizia. Professoressa Gismondo, un'altra domanda. Se meno letale della classica influenza, come ci ha spiegato il Vice Ministro Sileri, perché interi stati sono in quarantena? Questo virus porta con sé un'ombra di mistero inquietante, ci scrive un ascoltatore senza firma. Se mi permette, volevo aggiungere un altro dato a quanto assolutamente condivido col Vice Ministro, che fra l'altro ricordiamo è anche un medico, quindi un competente oltre che una carica istituzionale. Fa la differenza nell'informazione che stiamo ascoltando in questi giorni da varie fonti. C'è anche una distanza e un periodo di contatto necessario perché si contragga il virus. Bisogna essere stati con una persona sicuramente sintomatica, infetta, a meno di un metro e mezzo, due. E non basta, dai dati che abbiamo oggi, stiamo parlando di un virus che stiamo cominciando a conoscere bene solamente adesso, non basta un contatto così casuale. C'è bisogno che si frequenti un contatto ravvicinato e con una certa frequenza. Infatti i due pazienti erano due coniugi che condividevano la stessa camera e lo stesso viaggio. Quindi questo è importante. La domanda che mi ha fatto lei, tutto ciò che è sconosciuto fa paura e diventa un fantasma. Devo dire molte volte è fomentato da una cattiva informazione, che non è quella che fa lei e mi complimento. Certamente, siccome non conosciamo questo virus e sappiamo che i virus sono particolarmente ribelli, possono mutare, possono cambiare, e poi è un virus non umano, è un virus che proviene dall'animale, quindi con caratteristiche di aggressività diverse da quelle che noi riscontriamo nei virus che circolano normalmente nell'uomo, è giusto avere una massima attenzione. Ed certo, è quello che si sta facendo in Italia. In Italia. Vice Ministro... un'attenzione un'attenzione enorme, è come portare l'ombrello perché sicuramente in un anno pioverà. Quindi queste precauzioni devono rassicurarci e non spaventarci. Chiedo al viceministro Sileri se resta o se va, perché so che sono giornate calde. Sono ancora qui. È ancora, vede che no, è impossibile. Qualche altro minuto, è impossibile lasciarci, vero? No, è credo così. Che sia invece fondamentale essere presenti per dare quante più informazioni possibili corrette. Ecco, anche perché noi vogliamo. Allora, adesso ci state dicendo che è contagioso la persona che ha preso l'infezione, il virus in Cina, è arrivato in Italia e mentre ha i sintomi, quando ha i sintomi può contagiare. Ho capito? Io vorrei specificare questo. Bravo. È molto più probabile infettare quando hai sintomi rispetto a quando non hai sintomi. In mezzo c'è ovviamente non è tutto bianco o tutto nero, perché poi per i sintomi non tutti, proprio perché c'è una sintomatologia, non tutti abbiamo gli stessi sintomi. Quindi è chiaro che se hai febbre, tosse produttiva con una polmonite in atto, sarai sicuramente molto molto più infettante di colui che magari ha un poca febbre e non ha tosse, ad esempio. È chiaro che in linea di massima sì, è così. Più sintomi hai, più è probabile che tu sia infettante. Professore Sagismondo, sì, ha spiegato molto bene. Durata e distanza. La distanza l'abbiamo detto, 1,5 metri, 1,80 metri, meno di 2 metri, professoressa? Sì. Professoressa, sì. I portatori sani sono venuti fuori, è venuta fuori questa espressione. Chi sono, cosa fanno? Bisogna essere molto cauti nel parlare di portatori sani, perché portatore sano è colui che alberga il virus all'interno del suo corpo in distretti diversi, se lo porta avanti per n anni nella sua vita e può disseminarlo. Questo non è stato assolutamente provato, è precoce per dirlo, ma non è stato riscontrato. Noi dobbiamo parlare di quelli che egregiamente ha descritto il dottor Sileri poco fa, di quelle persone che si dicono pauci sintomatiche, cioè hanno dei sintomi così banali che non fanno pensare ad un coronavirus e che non fanno pensare a un ricorso all'assistenza ospedaliera. Questa fase è presente in tutte le infezioni respiratorie, ma anche la polmonite data dallo pneumococco che noi incontriamo in diagnostica frequentemente. C'è una prima fase in cui la persona ha un po' di tosse, si sente un po' di peso sul petto, non va subito dal medico né tantomeno in ospedale. Ecco, in questa fase, visto che giusto non c'è il bianco e il nero, sono altamente infettivo o sono assolutamente infettivo, alcuni virus possono essere emessi. Però, ripeto, a questo punto rientra l'osservazione di il contatto non diretto e continuato, non ravvicinato, e intervengono quelle misure che molti hanno guardato in maniera catastrofista, chissà cosa ci nascondono, che ha preso il governo italiano. Ha fatto bene, secondo me, unitamente a una corretta informazione, dicendo abbiamo esagerato, stiamo proprio esagerando, ma proprio perché vogliamo che la gente sia tranquilla. Io vorrei chiedere a lei, professoressa Gismondo, naturalmente coinvolgendo anche il viceministro Sileri, è scoppiata la psicosi. Questa trasmissione vuole anche sottolineare come si trasmette il virus, l'abbiamo detto, le modalità. Ci sono però tutta una serie di paure che vanno proprio dalla vicinanza al consumo di particolari alimenti. C'è chi usa la mascherina. Un ascoltatore mi scrive che a Roma ci sono tantissimi turisti, molti di questi cinesi, tutti con la mascherina. Come dobbiamo comportarci? Ciascuno di voi mi sottolinea quello che è magari la bufala, la fake news di questi giorni, in modo da evidenziarla e chiarirla. Parto dal viceministro Sileri. Allora, è vero, molti con la mascherina. Ieri c'è stata questa polemica. Mascherina. Sì, abbiamo pochi minuti, viceministro. Allora, mascherina per camminare per strada, completamente inutile. Mascherina in prossimità di qualcuno che è infetto può avere un'utilità, sicuramente ha più utilità una mascherina indossata da qualcuno che ha dei sintomi per difendere gli altri da se stesso. Professoressa Gismondo, Qual è in questa situazione di allarme il comportamento? Vorrei seccamente dire due cose. Sì. Gli alimenti non trasmettono il virus, quindi ristoranti cinesi vuoti, non ha senso. Gli alimenti, anche se dovessero arrivare alimenti dalla Cina, questi non potrebbero arrivare con questo virus. Il virus si trasmette solo per via aerea da paziente sintomatico o comunque pauci o sintomatico ravvicinato. Basta, non ci sono altri elementi di trasmissione. Questo è importante. E poi vorrei veramente dare un consiglio. Sì. Non andate sui vari siti a vedere tutte le informazioni le più tragiche possibili. Andate esclusivamente sul sito del Ministero della Salute, che trascrive le informazioni date dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, che è l'unico che può darci delle informazioni reali. Né assicuranti né allarmistiche, reali. Ma questa è l'unica nostra salvezza. Un'ultima domanda, anzi ne avrei due se riusciamo. Se mi ammalo, che cosa mi può succedere? Quali rischi posso correre? Professoressa Gismondo? Guardi, in questo momento potrebbe essere come una normale influenza, cioè un pochino di raffreddore, tosse. In questo momento non è possibile dire se mi ammalo, perché se mi ammalo vuol dire che sono stata in stretto contatto con una persona ammalata, e questo vuol dire che sono io di conseguenza già sotto controllo, perché il sistema sanitario è attivato così. Penso che il Vice Ministro mi possa dare ragione. Se una persona ha una diagnosi positiva che parte dal nostro laboratorio, questa persona subito viene messa in isolamento e si rintracciano i contatti vicini, i quali vengono monitorati, vengono testati per la presenza del coronavirus. Quindi è ovvio che non possiamo avere delle barriere, dei confini d'amianto perfetti. Il virus può trovare il forellino della nostra sanità, della nostra prevenzione, ma è veramente altamente improbabile. E ripetiamo, le persone che sono immediatamente assistite dal nostro sistema sanitario non hanno quasi nessun problema a rimanere in buona salute presto. Ricordo la SARS. Abbiamo avuto proprio nel nostro ospedale due pazienti con SARS provenienti dalla Cina. La SARS aveva una mortalità del 9%, invece noi stiamo parlando del 2%. Ebbene, questi due pazienti sono ancora vivi e vegeti, sono stati curati tranquillamente. Vice Ministro Sileri, in una battuta, il messaggio conclusivo di questa puntata, in cui siamo partiti dai dati, abbiamo parlato di come viene trasmesso il virus, abbiamo cercato di smascherare alcune bufale per evitare dei comportamenti che non hanno alcun fondamento reale scientifico. Allora io le lascio la chiusura da medico. Sì, faccio una medico, cosa ibrida, ecco. Medico politico. Nulla, tranquillizzare la popolazione, perché molti mi chiedono: avete fatto lo stato di emergenza, quindi vuol dire che la situazione è gravissima? Assolutamente no. È stato istituito lo stato di emergenza solo ed esclusivamente per migliorare quello che eventualmente, perché finora non ce n'è assolutamente nessuna prova, possa essere necessario. L'esempio della nave, ad esempio. Quindi è semplicemente un modo per migliorare diciamo il nostro servizio sul territorio, tutto qui. Quindi direi di stare davvero molto molto tranquilli. Grazie al Vice Ministro Sileri, alla professoressa Gismondo, a Peter Bescapè in regia, la parte tecnica, Edoardo Lavezzari in redazione. Io vi do appuntamento come sempre domani alla tavola della bufala in tavola a mezzogiorno. Buon sabato dalla vostra salutare ossessione quotidiana.